E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che ti amavano tanto. E lontano, lontano nel mondo, in un sorriso sulle labbra di un altro, troverai quella mia timidezza, per cui tu mi prendevi un po' in giro. Espressione di un volto per caso ti farà ricordare il mio volto, l'aria triste che tu amavi tanto. Lontano.